quante delusioni, quante inutili passioni nella vita. Quante volte abbiamo detto basta e disprezzato questa vita. Mai una volta che pensiamo a quello che ci porta a questa vita. Di paura della vita, anche se ci sono tante cose che non vanno nella vita, ma che cosa pretendiamo, cosa ci aspettiamo dalla vita? Thank you. la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se ora la tradirò, dirò le cose che dicevo a te. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se ora la tradirò, dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, se te ne vai, mi porti via il mondo, la mia felicità, ti chiedo per pietà di ripensarci. Se cosa me ne faccio di questa vita, se ho dedicato a te ogni momento di me. Il bene più grande che hai è l'ingenuità, che poi se ne va, e in te non resta più che un ricordo di felicità, incontrerai una folla che correndo ti trascinerà, ma se cadi non t'aiuterà. Da bambino non sei solo, ma da uomo puoi sperare. Vorrei vedere un altro al posto mio, non so se lui farebbe quello che faccio io. Sono uno scendiletto su cui cammini tu, cammini a piedi nudi fin da quando ti svegli al mattino. Sto qui come uno specchio a dirti che esisti sulla terra solo tu. Tu leggi nei miei occhi tutta la fedeltà di un cane che obbedisce solo a te. Io sono quello che ti dà ragione, anche se hai tutto marcio, solo perché sei tu. Per me che t'amo tanto, sei giusta come sei, ti so capire in tutto, perché vivo soltanto di te. Vorrei vedere un altro al posto mio. Anche se negli occhi miei sono fermi gli occhi tuoi, testa non girare più, no, no, cuore non parlare più, no, no. Com'è difficile un quando nel cuore. Lo so, no, amore, dico no. Questa luna in mezzo al blu, forse l'hai dipinta tu per potermi innamorare. No, ti prego, amore mio, non baciarmi più così. Testa non girare più, no,